19. Joseph osservava una grossa formica camminare su un ramo. L'insetto trasportava una foglia grande come una carta da gioco. Se gli uomini avessero tanta forza, pensò, potremmo abbattere a mani nude gli alberi che abbiamo davanti e snidare la milizia di Trion in pochi minuti. Era stato uno scontro duro. Dopo le prime scariche di fucileria, i guerrieri si erano lanciati all'assalto. Gli uomini di Herkimer avevano retto l'urto sulla radura, poi si erano lasciati incalzare nella boscaglia. Lo slancio degli indiani e dei volontari si era disperso in mille rivoli, fino a fermarsi. Lo scontro era diventato un caos indistinto, di colpi sparati da un tronco all'altro, a pochi passi di distanza. Joseph aveva atteso i volontari, dietro gli alberi, mentre i guerrieri ripiegavano furenti. Anche i Royal Green di Sir John tenevano le posizioni, ma in quella mischia era difficile capire chi sparasse a chi. Il risultato era che vivi, morti e feriti si trovavano sparsi su un'area di svariate centinaia di yarde quadrate di bosco. Solo il temporale aveva interrotto il combattimento. Mentre l'odore di foglie marce e legno bagnato copriva quello della polvere da sparo, Joseph si interrogò su come interpretare lo stallo. Quello doveva essere il suo giorno. Mentre i soldati inglesi assediavano Fort Stanwix, lui e Sir John guidavano il contingente lealista contro la colonna di Herkimer. Gli inglesi si fidavano di lui, l'indiano che aveva conosciuto il re. Qualcuno avanzò nel sottobosco e lo distolse dai pensieri. Sir John e MacLeod. Sulla nuova uniforme verde lo scozzese indossava ancora il berretto floscio. «Brutta faccenda!» disse Johnson livido. Herkimer è un tedesco dalla testa dura, lo conosco. Toccherà stanarli uno alla volta. Abbiamo già perso molti uomini, disse Joseph. Sir John annuì. Anche Herkimer. E non conosce questi luoghi bene quanto noi. Può soltanto provare a sgattaiolare via col buio. Molti dei suoi si perderanno nel bosco, ma tanti altri potrebbero farcela. Con licenza, signore, intervenne MacLeod. Gli stessi che l'hanno condotto qui possono tirarlo fuori. Le guide Oneida sono la sua salvezza. Joseph annuì. Le informazioni raccolte dicevano che quegli scout erano rinnegati delle tribù, mercenari senza onore. Bisognava pensare anche a loro. Nessuno gli avrebbe rimpianti. Butler lo raggiunse, seguito da Walter e dal capo dei guerrieri Seneca. Fino a quel momento i suoi indiani avevano assistito allo scontro dal margine della boscaglia. «I Seneca sono impressionati», ammiccò Butler, parlando in inglese. Dicono che oggi gli uomini di Joseph Brent hanno dimostrato di non temere la morte. Joseph annuì e rispose nello stesso idioma, fissando il capo del gruppo guerriero. Riferite a Sayengarakta le mie parole, capitano Butler. Ditegli che Joseph Brent vuole che lui e i suoi se ne stiano in disparte, come donne, e contemplino il nostro coraggio. Così non dovremo dividere con nessuno l'onore di questo giorno. Butler storse la bocca in un ghigno. Il Seneca ascoltò la traduzione e strinse la mascella con rabbia. Per un attimo sembrò sul punto di scattare, ma Joseph gli diede le spalle. Ascoltò l'aria, una quiete sinistra permeava la foresta. Capì che quello era il momento. Guardò negli occhi bianchi, uno dopo l'altro. Quelli di MacLeod brillavano di eccitazione. Sir John annuì, torvo, senza dire nulla. Butler rimase incerto, come non fosse sicuro di aver inteso cosa stavano pensando gli altri. Le palpebre, ridotte a fessure, scrutarono le intenzioni dell'indiano. «La polvere non è ancora asciutta», obiettò. Quando non ricevette risposta, si rese conto di aver inteso bene. Suo figlio Walter brandì l'accetta. Il vecchio capitano si calcò il cappello sulla testa. «E va bene, maledetti pazzi, facciamola finita!» Philippe Lacroix non si era dipinto il volto, eppure emanava un'aura di forza e minaccia. Durante il primo assalto aveva impedito ai giovani di scagliarsi alla cieca contro i nemici, aveva rallentato il loro slancio e trovato buoni ripari per bersagliare la milizia. In principio i giovani avevano scalpitato e inveito, ma si erano zittiti dopo che molti guerrieri erano caduti nella radura, falciati dai proiettili. Avevano preso a tirare da dietro gli alberi e le rocce. Philippe scrutò la macchia d'abete dove si erano arroccati gli scout Oneida di Herkimer. Poco dopo, una ventina di giovani Mohawk si muoveva silenziosa, guidata dal grande diavolo. L'ululato tagliò l'aria bagnata. Joseph alzò il tomahawk e alle sue urla si unirono quelle dell'intero contingente lealista. Il segnale attraversò la foresta, replicato da un albero all'altro. Un secondo coro risuonò al margine della vegetazione. I Seneca scendevano in battaglia. Il loro capo, Sayenga Ragta, gridava a Joseph Brant che gli avrebbe mostrato come sapevano morire i Seneca. Joseph si sentì soddisfatto ed eccitato. Si lanciò in avanti tra gli alberi, Kanatawakon e Sakienakenta a coprirgli i fianchi. Al suo passaggio i volontari saltavano allo scoperto e lo seguivano urlando il suo nome. Impattarono contro la prima fila di miliziani, avvinchiandosi a chi si parava davanti, e rotolarono a terra in una cascata di foglie e fango. Filippo aspettò di essere alla distanza giusta, da dove poteva contare gli avversari. Erano una trentina, ben armati e in guardia. Aspettavano di capire come sarebbe ripresa la battaglia per decidere il da farsi. C'erano anche alcune donne per trasportare viveri e munizioni. Filippo poteva avvertire l'odio dei guerrieri per gli Oneida. Individuò il più grosso, una mole impressionante, quindi uscì da solo allo scoperto, armato di mazza e coltello. Quando lo vide avanzare, il gigante accolse la sfida con ampi cenni d'assenso. Philip schivò la sua accetta e lo pugnalò al fegato. In quello istante, i Mohawk si lanciarono all'attacco. Roy Atacarillo, gli occhi bianchi e spaventosi sul cranio dipinto di rosso, piove per primo in mezzo ai nemici, spaccando teste con il calcio del fucile. Niente sembrava poterlo fermare, finché una delle donne spuntò le sue spalle e gli piantò un coltello nella schiena. Orognateca, due mani stampigliate sul petto, simili alle ali di un'aquila, si lanciò a terra e con due colpi netti recise i tendini delle caviglie dei guerrieri, che caddero come marionette. Canenonte raggiunse la donna che ancora brandiva il coltello e le colpì il volto con il tomahawk. Sangue e denti schizzarono via. Sir John dispose che i Royal Green indossassero le uniformi rivoltate per essere bersagli meno riconoscibili. Diede l'ordine d'attacco e uscirono dai ripari con le baionette innestate sui fucili. Gli Highlander impugnarono le sciabole. Cormac MacLeod baciò i simboli runici sull'elsa. L'arma era appartenuta a suo padre. I segni incisi risalivano a prima del regno di Maria Stuarda, a prima che esistesse un re di Scozia e d'Inghilterra, quando il segreto della forza si tramandava attraverso formule magiche che soltanto pochi conoscevano. Sollevò la spada al cielo. «Walid Mihuansaken!» gridò. Gli scozzesi lo seguirono con l'impeto di antichi guerrieri. Herkimer guardò ancora il cielo, l'anima sbalzata fuori dal corpo, sospesa quanto bastava a notare che la luce era più intensa e le nuvole si diradavano per subito precipitare nella gabbia di carne con un singulto di dolore accecante. I sei uomini che lo tenevano fermo si aprirono come i petali di un fiore. Van Hoek cautorizzò il moncherino con la lama rovente. Herkimer svenne. Quando tornò cosciente, si accorse che poteva ancora respirare e udire il fragore dello scontro che frantumava il bosco. Rami spezzati, corpi gettati a terra, urla, sagome veloci che correvano in ogni direzione. I miliziani gli fecero scudo, mulinando i fucili come clave, ma vennero subito affrontati da Harry Hogg e dai suoi. Il generale si sentì sollevare, trascinare via. Riuscì ancora a vedere De Jong arretrare dal groviglio di cani rabbiosi, la sciabola in pugno, gridando ordini ai difensori per ricomporre una fila ordinata. Le forze cedettero. Herkimer lasciò cadere la testa all'indietro. Vide le cime degli alberi scorrere sopra di sé, alternate a sottili strisce di cielo chiaro. Dovevano resistere ancora un poco e la polvere si sarebbe asciugata. I rumori giungevano più attutiti adesso, coperti da un ronzio sordo. «Generale Washington», mormorò, «oggi, 7 agosto dell'anno 1777, io, Nicholas Herkimer, generale della milizia della contrea di Trion, scrivo a Vostra Eccellenza, chiamando Dio a testimone». Sulla linea di difesa De Jong trafisse un avversario, gli piantò uno stivale nel petto per liberare la lama. Una valanga indistinta di corpi travolgeva piante e terriccio, scheggiava ossa e corteccia, spruzzava sangue e budella. «Eccellenza, oggi i miliziani volontari di Trion hanno resistito all'imboscata di un contingente misto di lealisti e guerrieri indiani di pari entità, se non superiore per numero». De Jong parò l'affondo di un soldato in giubba verde che era riuscito a superare lo sbarramento. Con la spada gli trapassò la gola di netto. Gridò ancora ai miliziani di serrare i ranghi, di non farli passare. «Nessuno di loro è arretrato di un passo. ogni patriota sotto il mio comando ha restituito colpo su colpo, preferendo cadere nell'abbraccio mortale con l'avversario piuttosto che cedere il campo. De Jong ricevette un fendente alla testa. Il capitano rotolò su se stesso, si rialzò, accecato dal sangue che gli colava sugli occhi. Si toccò la fronte, lo squarcio arrivava all'osso. Riuscì ancora a trascinare la spada, poi crollò in ginocchio. «Generale, in fede vi chiedo di proporre la milizia di Trion per la medaglia al valore del Congresso. Dio salvi l'America!» De Jong cercò di sollevare la spada, ma il braccio ricadde inerte. L'affondo gli mozzò il fiato. L'ultima cosa che vide furono le rune incise nel metallo, che gli spuntava dal fianco. Orognateca era una freccia che fendeva il bosco. Philippe correva parallelo a lui, poche yard indietro. Lo vide raggiungere un Oneida, sgambettarlo e farlo cadere. Con un solo movimento gli saltò sulla schiena e recise lo scalpo. Lo brandì in alto, gridando insulti ai nemici. Quattro guerrieri camminavano all'indietro, schierati a protezione di un Oneida zoppicante. Quello in mezzo vide Philippe e gridò: «Tu sei il grande diavolo! Ti ho riconosciuto! Io ti sfido! Io sono Niere Tengarongwen! Oggi ho raccolto 12 scalpi! Ti ucciderò e tutti conosceranno il mio nome!» L'ultima sillaba fece appena in tempo ad abbandonare le labbra. Philippe scattò in avanti roteando la mazza, pietra di fiume incastonata in una clava. Calò un fendente e sfondò il cranio del guerriero. Rumore di ossa pestate in un mortaio. Percepì un movimento di fronte a sé e si abbassò di colpo. Con un calcio spazzò a terra il secondo Oneida. Gli balzò addosso, lo pugnalò la gola e subito rotolò via. Il terzo gli fu sopra, ma un colpo di mazza dal basso gli spaccò la faccia. Mentre Philippe si rialzava, il quarto Oneida lo colpì di striscio col tomahawk. Si avventarono l'uno sull'altro. Philippe gli squarciò l'addome dall'inguine allo stomaco. Si ritrovò in piedi, a guardare negli occhi l'ultimo nemico rimasto. Shonunses, Sachem degli Oneida. Il vecchio capo ansimava. Lorenda perduto in battaglia, l'onore dissolto con la fuga. Orognateca si era bloccato, fissava il grande diavolo con aria sbigottita. L'intero scontro era durato lo spazio di un pensiero. «Uccidilo!» gridò. «Uccidilo, grande diavolo!» Philippe guardò Shonunses. L'anziano respirava a fatica, una sorta di gorgoglio. Costole rotte avevano forato i polmoni che ora si riempivano di sangue. Cercò di alzarsi, col tomahawk in pugno. Philippe attese che fosse in piedi. Sollevò la clava e colpì il vecchio con tutta la forza. Le grida di Orognateca salutarono lo sceno scrocchio simile a una bestemmia senza parole. Kanatawakon si fermò dietro un albero, prese la mira e fece fuoco. L'istinto Joseph allungò il passo sotto il peso di Isaki e Nakenta. I muscoli dolevano, il sudore lo accecava, ma non avrebbe mai lasciato il corpo del guerriero ai corvi. Era morto al suo fianco, meritava un funerale e una degna sepoltura. Non ricordava il momento esatto in cui le armi avevano ripreso a sparare. Aveva scaricato le pistole di Lord Warwick contro i nemici, talmente vicini da vederne il colore degli occhi. I proiettili fischiavano tra i rami, gli uomini cadevano. La milizia continentale ancora resisteva. Se voleva essere un capo, doveva essere saggio. Se voleva comandare, doveva saper prendere le decisioni giuste. Aveva fatto risuonare l'ululato del clan, ripetuto da Kanatawakon con quanto fiato aveva. L'aveva fatto prima che i gesti di quel giorno di sangue perdessero senso, cancellati dalla mattanza. Uccidere e morire doveva mantenere un significato nel quadro della guerra e nel ciclo delle cose, oppure ogni sforzo sarebbe stato vano e il caos sarebbe prevalso. Raggiunsero un dosso al riparo degli alberi e Joseph posò il corpo di Saki e Nakenta tra le felci. Si voltò a guardare i volontari. Sparavano ancora mentre arretravano. Il sangue li aveva resi ebri. Uno di loro brandiva una testa come trofeo.